Effetto Mondo. Eccoci qua, buongiorno Giulia Crivelli, ciao. Buongiorno Giulia. Davide, tu che sei a Vicenza, ti invidio un po', sai, perché tu vorresti essere qua. Io vorrei essere lì. Esatto, io vorrei essere lì in studio a condurre il programma, essere sempre sul pezzo, invece naturalmente questi sono anche i tuoi temi, cara sì, Giulia. Sì, poi davvero vuoi, lo poi dicevi, facciamo uno scambio di punti di vista. Lo dicevi, insomma, è un'eccellenza italiana, lo è davvero, lì a Vicenza c'è il distretto di Vicenza, ce ne sono anche ad Arezzo, qui vicino a Valenza Po, persino in Lombardia. Lombardia ci sono, quindi appunto prossima volta vado io a fare, facciamo scambio. Allora invece, allargando il quadro sui giornali internazionali, Giulia, ho visto che ci proponi, come dire, di partire ancora sulla questione americana, sull'impeachment, che al Senato è, diciamo, il nodo forse più atteso, perché alla Camera sapevamo come potevano andare le cose. Sì, Nixon, come sappiamo, non lo abbiamo mai visto perché si era dimesso prima di arrivare a queste fasi molto formali, e quindi i giornali americani, i telegiornali sono veramente colpiti appunto dalla formalità di questa procedura. Ieri c'è stato il giuramento di tutti i senatori, che sono 50, perché sono 100 perché sono due per ogni stato, e 50 sono gli Stati Uniti, gli stati degli Stati Uniti, quindi tutti e 100 hanno giurato solennemente sulla Bibbia e sulla Costituzione di essere il più imparziali possibile. E quindi il Washington Post dice il processo al Senato a Trump inizia, e sentiamo dalla NBC, perché volevo ricordare, a volte noi facciamo sentire la CNN, è forse fin troppo semplice prendere dei commentatori diciamo non pro Trump dalla CNN, che è da sempre in contrasto con Trump. Ricordiamo che è l'unica televisione alla quale lui non ha mai dato interviste. NBC cerca di essere un po' più così imparziale. Sentiamo quindi il commentatore della NBC mentre trasmette queste immagini molto solenni dal Senato. Will all senators now stand or remain standing and raise their right hand? Quindi hanno proprio dovuto alzare la mano destra e, come all'inizio di ogni processo, l'abbiamo visto in tutte le serie TV, giurare appunto sulla Costituzione e sulla Bibbia. Vedremo come proseguirà questa fase del processo al Senato. Ieri, e ne parlano anche in questo caso sia USA Today che New York Times che Washington Post, ma anche il Wall Street Journal, c'è stata questa ulteriore novità, e molti dicono che Nancy Pelosi è molto più furba di quello che si creda, perché lei non ha, secondo molti, ritardato questo inizio formale al Senato, il passaggio delle carte, così a caso, ma perché appunto sapeva che sarebbero venute fuori altre cose, per esempio appunto questo annuncio della locale Corte dei Conti, che dice quei soldi che Trump a un certo punto non ha più dato all'Ucraina avrebbe dovuto, perché c'era già una decisione del Congresso, e qui torna in gioco l'equilibrio di poteri che c'è negli Stati Uniti, quindi ha veramente violato la Costituzione prendendo una decisione che non spettava lui prendere. Quindi, insomma. Senti Giulia, come si pronuncia il neologismo Meghan Exit? Cioè, nel senso, l'idea della casa reale Mexit. Povera Meghan, non Harry Exit. Hai notizie su Mexit? Ma sì, guarda, allora Mexit è anche su Brexit. Allora, Meghan e Harry ieri ha fatto un paio di nei giorni scorsi ha fatto un paio di uscite, ma non ha voluto commentare, quindi le sue foto ci sono un po' dappertutto. E poi invece il Daily Mail ha questo lungo racconto della Royal Correspondent, perché ogni giornale britannico ha, diciamo, come noi abbiamo magari a volte i quirinalisti, che poi non lo fanno a tempo pieno, loro invece hanno dei cronisti della famiglia reale a tempo pieno, e qui dice che Harry in fondo l'ha sempre detto che voleva walk away da questa vita, quindi andarsene dal suo ruolo di reale, mentre mi ha molto colpito la prima pagina del Tagesspiegel, un quotidiano di Berlino, che ha questa foto bellissima di Meghan di profilo, e dice di princessin in uns, quindi la principessa che c'è in ognuno di noi, quella principessa, quella che vuole un po' essere ribelle e, diciamo, principessa, ma poi non fare la principessa quando questo vuol dire osservare delle regole troppo, troppo rigide. Ed è curioso perché sul sito di Tagesspiegel c'è un collage di tutte le volte che lei ha leggermente infranto il protocollo, ma per dire, lei esce dalla macchina, il protocollo dice che deve essere la guardia del corpo a chiudere la porta, lei se la chiude sempre da sola, apriti cielo, quindi... La principessa. Senti, che è curioso, stavo riflettendo su questo, che non nessuno abbia impiegato l'espressione, proprio di parole in inglese, downshifting, che qualche anno fa andava molto di moda invece per definire, cioè, quando uno vuole scalare marcia e uscire Non mi pare che sia stata impiegata a proposito di Harry e Meghan. Tra ma l'altro, forse... poi loro nel concreto un po' lo stanno facendo, perché un'altra notizia dai giornali britannici è che hanno rinunciato a tutto lo staff della famosa casa che avevano ristrutturato con denaro pubblico. Quindi adesso non so, Meghan che fa le pulizie non me la vedo tanto, né Harry che fa la lavastoviglie o lava i piatti. Però intanto hanno appunto hanno rinunciato a tutto questo staff di servizio che avevano. E tra l'altro comunque allora, vengono attaccati anche per questo, perché allora c'è chi titola: ecco, li hanno licenziati senza giusta causa. Quindi qualunque cosa facciano sbagliano per qualche giornale. Allora, Gran Bretagna, rimaniamo per vogliamo sentire, per aprire l'argomento di discussione, il question time di Johnson, Boris Johnson, e poi commentiamo, vogliamo partire da qua, vai. Mr. Speaker, last Thursday we received the devastating news that more than 350 steel jobs will be lost in Sheffield, Rotherham and Newport. Yet another blow for steel workers, their families and communities. Ecco, qui sentiamo una deputata del Labour, vicino a lei c'era anche Jeremy Corbyn, che dice... questa è la mia domanda, perché appena un mese fa le persone l'hanno votata, certo, perché to get Brexit done, però anche per risollevare le zone più colpite dalla crisi economica britannica. Che cosa ci dice della crisi dell'acciaio che si ripresenta in tutta la sua drammaticità? E Boris Johnson cerca di rispondere con toni, devo dire, che mi piacerebbe tanto vedere anche nel nostro Parlamento. Oh, senti un po', sentiamo. I can assure her that the government is indeed embarking on a plan to do everything we can to make sure that steel made in this country. Dice, posso confermare che questo governo sicuramente cercherà di portare avanti una politica per quanto riguarda l'industria dell'acciaio, molto in crisi anche nel Regno Unito e non da oggi, e quindi glielo prometto naturalmente. Insomma, meglio comunque una risposta che ammette la difficoltà del momento e fa una promessa piuttosto che magari non rispondere. Devo dire toni molto civili, abbiamo visto anche nel Parlamento britannico, per carità, toni non civili, però adesso direi che invece ci sono. E tra l'altro l'ultima cosa che volevo segnalarti è che Financial Times ha praticamente la stessa apertura del Sole 24 Ore, cioè su questa grande decisione di Berlino che alle parole fa subito seguire i fatti. Entro il 2038 cioè 40 miliardi stanziati di euro, perché entro il 2038 tutti i lender della Germania diventino veramente carbon free, carbon neutral. Quindi insomma si dice e si fa in Germania, ecco, nonostante poi naturalmente questo potrebbe anche avere delle conseguenze a breve per chi è al governo in questo momento. Certo, certo. Beh, insomma, su questo tema qua della transizione energetica, che Germania è sicuramente per prima linea. Giulia, che è tutto anche per oggi. Abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Grazie a te, grazie agli ascoltatori qua in diretta da Vicenza Oratore, in studio invece a Milano. Noi ci salutiamo. Ringrazio Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi in regia, la squadra in trasferta qua a Vicenza, Guido Scotti, Elena Ligios, Luigi Speciale. Ci risentiamo lunedì prossimo con Effetto Giorno. Alessio Maurizi, l'augurio di una buona giornata e ci risentiamo tra poco per i titoli delle 14.